Lo sguardo perduto nel patio. Un giorno di pioggia come tanti altri, la zia Fernanda scoprì finalmente la causa esatta del suo smarrimento. La cadenza. Era proprio quello, perché tutto il resto era al suo posto. Era la maledetta cadenza a farle perdere la testa. La cadenza, quell'indecifrabile dettaglio che fa sì che qualcuno cammini in un certo modo, parli con un certo tono, guardi con una certa calma, accarezzi con una certa esattezza. Se avesse avuto un grammo di cervello per intuire l'imbroglio, non ci sarebbe caduta. Ma chissà dove aveva lasciato la testa quella volta e da dove veniva a suo padre la convinzione che l'uomo sia prima di tutto un essere razionale. Forse quando diceva uomo, escludeva la donna. Era irritata perché non si sarebbe mai aspettata quel disordine. Qualche volta aveva fantasticato di cose che andavano al di là della pace delle sue 30 pareti e del suo letto di piuma, ma non si lasciava il tempo di dare seguito a idee tanto disdicevoli. Aveva molti impegni e quando non ne aveva se li inventava. Doveva insegnare catechismo ai bambini poveri e cucito alle loro povere mamme. Doveva organizzare la colletta per la Croce Rossa e ballare i balli di beneficenza. Doveva ricamare i tovaglioli, per quando le figlie fossero cresciute e si fossero sposate, in attesa che si sposassero, doveva cucire loro i costumi di carnevale per le feste della scuola. Doveva portare il bambino a cercare i girini il pomeriggio, fare i compiti di aritmetica e sapersi disapprovata quando facevano quelli di inglese. Inoltre giocava a bridge con certe amiche e organizzava incontri di lettura con certe altre. Come se non bastasse, preparava personalmente il dolce per ogni pasto e badava che non mancasse il vino bianco nella minestra, che la carne non si dorasse troppo, che il riso si gonfiasse senza attaccarsi, che le salse fossero piccanti al punto giusto e che i formaggi venissero serviti insieme all'uva. A quei tempi i mariti pranzavano a casa e poi facevano la siesta perché l'eternità del giorno non si facesse sentire a metà pomeriggio. A quei tempi nelle case si faceva colazione senza fretta e non mancavano delizie notturne come il pane dolce e il caffè e latte. Far sì che tutto questo succedesse senza confusione ed essere al tempo stesso sempre di buon umore era ciò che qualsiasi marito aveva il diritto di aspettarsi dalla propria moglie. Così alla zia Fernanda non passava neppure per la testa di sentirsi eroica. Aveva protezione, allegria e piacere a sufficienza. Spesso, vedendo i suoi figli dormire e suo marito leggere, pensava di avere avuto fin troppo. Come avrebbe potuto desiderare qualcosa di più di quel tranquillo benessere? Non era proprio possibile. A lei la cadenza era caduta dal cielo, o dall'inferno, si diceva, furiosa per quella confusione. Passava tutta la messa delle 9 a discutere con Dio di quel disastro. Non era giusto, tante cugine zitelle e lei con quello scompiglio in tutto il corpo. Non chiedeva mai perdono. Che colpa ne aveva lei se la divina provvidenza aveva deciso di esagerare la sua infinita misericordia? Non aveva bisogno di altri castighi, non aveva paura di nulla. Quel che le stava accadendo era già la sua penitenza e il suo al di là. Era sicura che una volta morta non avrebbe avuto forze sufficienti per nessun tipo di vita, tantomeno la vita eterna. I suoi incontri con la cadenza la lasciavano esausta. Era così complicato amarsi nelle cantine, sui terrazzi, trovare luoghi oscuri e meandri solitari in quella città dove oscurità e meandri abbondavano talmente da non essere mai casuali. Come sapere se le scale di una chiesa o il pavimento di una cantina erano sicuri, quando in qualsiasi momento a qualcuno poteva venir voglia di ubriacarsi e di dire un rosario? Erano sempre in pericolo, sempre sul punto di perdersi. Prima nei confronti degli altri, poi di se stessi. Quando si lasciavano, lei respirava sicura di non volerlo rivedere, di aver esaurito tutta la necessità, sicura che non ci fosse niente di meglio che tornare a casa sua, pronta ad amare gli altri con tutta la veemenza che quella follia le aveva lasciato. E tornava a casa tollerante, incapace di educare i suoi figli a lavarsi i denti, disposta a raccontare loro fiabe e cantare canzoni finché non fossero entrati nella pace degli angeli custodi. Tornava a casa illuminata, illuminata si infilava nel letto e tutto, anche il desiderio di suo marito, si illuminava con lei. E che l'affetto non si consuma, pensava. Chi si sarà inventato che l'affetto si consuma? Non fu mai tanto generosa come in quel periodo. In quel periodo si prese cura dei due bambini, che le lasciò la cuoca per seguire la propria personale cadenza. In quel periodo la sua amica Carmen si ammalò di tristezza e finì in manicomio. E la zia Fernanda la fece uscire, per assisterla e guarirla. In quel periodo sua cugina Julieta venne la peregrina e spaventosa idea di andare a combattere in montagna per salvare la patria. Anche dei figli della cugina Julieta si fecero carico e si fece carico la zia Fernanda. Ci stiamo dividendo il lavoro, diceva quando qualcuno si provava a criticare Julieta la clandestina. Trovava il tempo per tutto, perfino per ascoltare suo marito parlare di un nuovo affare o fare il suo commento quotidiano sul devastante stato in cui si trovava l'irresponsabile, abusivo e corrotto governo della Repubblica. Primo errore, essere una Repubblica, diceva. Invece di fare tesoro della saggezza dell'imperatore Iturbide e rimanere per sempre un fiorente impero. Sì, amor mio, sapeva rispondere la zia con voce soave. Non poteva certo mettersi a discutere di politica quando la vita la teneva occupata con questioni ben più importanti. Poco a poco si stava adattando allo scompiglio, riassunse le messe quotidiane nella messa della domenica, liberò i bambini dal catechismo e lasciò a sua sorella la responsabilità delle lezioni di cucito, dedicò i pomeriggi ai 9 figli che il suo delirio aveva messo insieme agli altri impegni, compresi quelli di trovare il vino buono e scalare terrazzi, trovarono agevolmente posto nelle sue giornate. Chi lo avrebbe mai detto? Proprio lei, che tanto temeva il disordine, gli era grata come al sole. Perfino nel fisico le si notava la generosità del caos in cui viveva. Che cosa ti metti sul viso? Le domandò sua sorella quando si incontrarono nella casa paterna. Confusione, rispose la zia Fernanda mettendosi a ridere. Sta attenta alle dosi, disse suo padre, succhiando il suo sigaro come se non avesse il cancro. Era un uomo meno. Era il miglior rifugio. Non sempre dipendono da me, rispose la zia Fernanda abbracciandolo. Ed era vero che non dipendevano da lei. Quando il padrone della cadenza decise di scomparire, l'eccesso di confusione per poco non la uccise. Un bel giorno quel signore imboccò la strada della disaffezione e come un lampo passò dalla dedizione assoluta al disincanto, dalla necessità all'abbandono, dal conoscerla come il palmo della propria mano, al dimenticarla come il palmo della propria mano. A quel punto quel disordine perse ogni logica e la vita della povera zia Fernanda precipitò nello spaventoso caos dei giorni senza volto. Uno dopo l'altro si andarono accumulando sul catarro più tenace che mai donna abbia patito. Passava ore intere con la testa sotto il cuscino, piangendo come se tossisse, soffiandosi il naso e imprecando come un ubriaco. Grazie al cielo, proprio allora suo marito venne l'idea di fondare un partito democratico che si opponesse all'insolente PNR, un partito degno di lui e dei suoi angustiati e onestissimi amici. Non si preoccupò quindi di indagare troppo sui mali della sua signora. Del resto aveva già notato che stava diventando matta come un cavallo. Non era che una conferma della teoria che suo padre e sua nonna avevano trovato espressa con estrema chiarezza da Schopenhauer, di cui erano assidui lettori. Le cause e le certezze filosofiche dell'assenza di cervello nelle donne. Tutto questo lo pensava quando ancora la sua casa funzionava senza intoppi, potendo contare sull'inerzia dei tempi in cui la zia Fernanda viveva infiammata e febbrile. Continuava a trovare asciugamani in bagno e bottoni sulle camicie, caffè di Veracruz a colazione e sigari cubani nel cassetto dello scrittoio. I bambini avevano uniformi nuovi e libri foderati di fresco. La cuoca, la serva, la bambinaia, il cameriere, l'autista e il giardiniere avevano appena limato le asperità alimentate dalla convivenza. E perfino Felipita, la vecchia ingobbita che pensava ancora di essere la bambinaia della zia, si godeva la dolcezza delle confidenze che questa le andava facendo. Così passò più di un mese. La stanza della zia Fernanda odorava di chiuse di bella donna, lei di lacrime e di tormento. Gli occhi le si erano gonfiati come quelli di un rospo e sulla fronte aveva 4 rughe in più. I bambini cominciavano a essere stufi di averle tutte vinte. La cuoca litigò a morte con l'autista, suo marito finì di fondare il partito e cominciò a sentire il bisogno di conversazione di talamo nunziale. Il direttore della Croce Rossa telefonò chiedendo aiuti economici. Sua sorella voleva sospendere per un po' le lezioni di cucito e come se non bastasse suo padre le mandò a dire che i malati di cancro finiscono per morire. E che poi lei avrebbe sentito la sua mancanza. Alla zia Fernanda venne da piangere disperatamente, come il primo giorno. Pianse, tramocci e lacrime, 12 ore di seguito. Verso le 7 di sera, Felipita le preparò un infuso d'azzardo, tiglio e valeriana in dosi per casi estremi, e e la mise a dormire finché la divina provvidenza avesse avuto pietà di lei. Una mattina la zia Fernanda aprì gli occhi e il sollievo la sorprese. Aveva dormito notti intere senza digrignare i denti, senza sognare pesci morti, senza soffocare. Aveva gli occhi asciutti e voglia di fare pipì, come si deve, per la prima volta da molto tempo. Rimase mezz'ora nella vasca da bagno e uscendo con i capelli bagnati e la pelle lustra, vide il suo viso nello specchio e si strizzò gli occhi. Scese quindi a fare colazione con la sua famiglia, che per la gioia riuscì a perdonarle che il pane sapesse di rancido, perché l'autista aveva cambiato panetteria pur di non andare in quella che le aveva ordinato la cuoca, che si credeva di essere lei per comandarlo. Terminate le faccende mattutine, la zia Fernanda se ne andò a messa come ai vecchi tempi. Mi devi la vita eterna, disse alla Santissima Trinità. Quando la zia Carmen venne a sapere che suo marito era caduto prigioniero di altri profumi e di un altro abbraccio, lo diede senz'altro per morto. Perché non aveva vissuto con lui 15 anni invano. Lo conosceva come le sue tasche e nella lunga e oziosa lista dei suoi pregi e difetti non era mai spiccata la vocazione di donnaiolo. La zia era sempre stata sicura che prima di prendersi il disturbo di diventarlo suo marito sarebbe morto, che tentasse di raccapezzarsi anche se in modo superficiale con le manie, i compleanni, le particolari avversioni e le inevitabili fissazioni di un'altra donna sembrava più che impossibile. Suo marito poteva perdere il tempo restando fuori tutta la notte a giocare a carte e a parlare di politica, ma che lo buttasse via, intendendosela con un'altra signora, compiacendola e ascoltandola, era tanto incredibile quanto insopportabile. A ogni modo, un pettegolezzo è un pettegolezzo e quella verità incerta le pesava come una maledizione. Così decise di mettersi a lutto e di comportarsi di fronte a lui come se non lo vedesse. Quindi cominciò a disinteressarsi delle sue camicie, dei suoi vestiti, della lucentezza delle sue scarpe, dei suoi pigiami, della sua colazione e poco a poco anche dei suoi figli. Lo cancellò dal mondo con tanta cura che non solo sua suocera e sua cognata, ma perfino la sua stessa madre concordarono che bisognasse internarla. Così finì in manicomio senza opporre troppa resistenza. I bambini vennero sistemati a casa di sua cugina Fernanda, che a quell'epoca aveva un tale subbuglio nel cuore che per ventilarlo lasciava le porte aperte, così che chiunque poteva entrare e chiedere affetto e favori senza neppure bussare. La zia Fernanda era l'unica visita della zia Carmen in manicomio, l'unica, a parte sua madre, che d'altronde avrebbe benissimo potuto fermarsi lì perché non smetteva di piangere per i suoi nipoti e di mangiarsi le unghie. A 75 anni, disperata perché sua figlia non aveva avuto il coraggio e il buon senso necessari per rimanere con loro, come se gli uomini non fossero tutti uguali. La zia Fernanda, che a quell'epoca viveva nel difficile frangente di amare due uomini allo stesso tempo, andava al manicomio sicura che sarebbe bastato un impercettibile spostamento di qualche rotella per rimanere laggiù, per almeno quattro buone ragioni. Così, per non correre il rischio, si portava sempre dietro molti lavori manuali con cui tenersi occupata e tenere occupata la sua infelice cugina Carmen. Al principio, dato che la zia Carmen era svanita e lenta, l'unica cosa che facevano era infilare 100 perline in un filo e chiudere la collana che sarebbe poi stata venduta nel negozio destinato a raccogliere fondi per le pazze povere di San Cosmè. Era un luogo orribile nel quale nessuno che fosse sano di mente continuava a esserlo per più di 10 minuti. Fu contando perline che la zia Fernanda non resse più e rivelò alla zia Carmen il suo altrettanto spaventoso peso. Si soffre perché sono troppi o troppo pochi? La rovina è la norma. Avere meno di un marito non è ben visto, ma consolati. È visto anche peggio averne più di uno, come se l'affetto si consumasse. L'affetto non si consuma, Carmen, disse la zia Fernanda. E tu non sei più pazza di me, quindi andiamocene di qui. Quello stesso pomeriggio la portò via dal manicomio. Fu così che la zia Carmen si installò in casa di sua cugina Fernanda e tornò alla vita e ai suoi figli. Erano cresciuti tanto in 6 mesi che le bastò vederli per recuperare la metà del senno. Come aveva potuto perdersi tanti giorni di quei bambini? Giocò con loro al cavallo, alla mucca, alla regina, al cane, alla fata madrina, al toro e all'uovo marcio. Dimenticò che erano figli del defunto, come chiamava suo marito, e la notte dormì per la prima volta come un adolescente. La mattina chiacchierava con la zia Fernanda. Poco a poco cominciò a ricordarsi come si cucina un riso colorato e quanti spicchi d'aglio ci vogliono nella salsa degli spaghetti. Un giorno passò ore a ricamare un detto imparato da una pazza in manicomio, di cui solo quella mattina aveva compreso il significato. Non rovinare il presente, lamentandoti per il passato o preoccupandoti per il futuro. Lo regalò a sua cugina con un bacio in cui c'era più compassione che riconoscenza pura. Deve essere estenuante amare il doppio, pensava quando vedeva Fernanda cadere addormentata come un gatto in qualsiasi angolo e a qualsiasi ora. Una di quelle volte, guardandola dormire con l'aria di una che finalmente respira da sé, risuscitò suo marito e si sorprese a mormorare: Povero Manuel! Il giorno seguente si svegliò di buon mattino cantando Para quererte a ti e dopo aver vestito e pettinato i bambini con l'efficienza dei vecchi tempi li mandò a scuola e dedicò 3 ore a spalmarsi creme, spazzolarsi i capelli, arricciarsi le ciglia, scegliere un vestito tra i 10 che le offriva Fernanda. Hai ragione, le disse. L'affetto non si consuma. Non si consuma l'affetto. Per questo Manuel mi ha detto che mi amava tanto come l'altra. Che orrore! Ma dopo tutto che me ne importa? Perché devo impazzire per i pettegolezzi? Quando me ne stavo a casa mia a fare i miei bei sospiri? Non uno di più e non uno di meno di quelli che mi ha assegnato la divina provvidenza. Se Manuel ne ha d'avanzo, che Dio lo benedica. Io non ne volevo di più, Fernanda, ma neppure di meno. Neppure uno di meno. Tenne questo discorso mentre Fernanda le raccoglieva i capelli e le infilava un filo d'oro in ciascun lobo. Quindi andò a cercare Manuel per avvertirlo che a casa sua ci sarebbe stata minestra a mezzogiorno e a qualsiasi ora della notte. Manuel conobbe allora la bocca più avida e lo sguardo più saggio che avesse mai visto. Mangiarono minestra. Il giorno in cui morì suo padre, la zia Isabel Covian perse la fede in ogni potere oltraterreno. Quando la malattia insorse, andò a chiedere aiuto alla Vergine del Sacro Cuore e poco dopo al signor Santiago, che c'era nella sua parrocchia, un santo dall'aria molto efficace, tant'è che l'avevano messo a cavallo. Poiché nessuno di due si mostrò disposto a intercedere per la salute di suo padre, la zia andò a far visita a Santa Teresita, che sembrava tanto buona, a San Domenico, che era tanto saggio, a San Giuseppe, che solo per la sua castità doveva avere tutto concesso, a Santa Monica, che tanto soffrì per suo figlio, a Sant'Agostino, che tanto soffrì per sua madre, e perfino a San Martino di Porres, che era nero come la sua disgrazia. Ma poiché 5 giorni dopo ancora non si vedeva nessun risultato, la zia Isabel si rivolse a Gesù Cristo e al suo stesso padre, pregando per la vita del proprio. A ogni modo suo padre morì, come era stato stabilito sin dal suo concepimento, mercoledì 15 febbraio 1935 alle 3 del mattino. Allora, con grande sorpresa della zia Isabel, la terra non si aprì, né il sole cessò di sorgere, né tacquero gli uccelli, che tutti i giorni schiamazzavano tra i rami del frassino del giardino. I suoi fratelli non rimasero muti, né sua madre cessò di muoversi con la leggerezza del suo bel corpo. Peggio ancora, lei stessa continuava a essere perfettamente viva nonostante avesse sempre creduto che una cosa simile l'avrebbe uccisa. Col tempo comprese che sarebbe stato anche peggio, che quel dolore l'avrebbe accompagnata per tutta la vita, costantemente, come se fosse stato una parte del suo corpo. Era bello il suo papà morto. Aveva la pelle più bianca che mai e le mani morbide come sempre. Quando tutti scesero a colazione, lei rimase sola con lui e per la prima volta in vita sua non seppe che cosa dirgli. Riuscì soltanto ad adagiarsi contro quel corpo e mettersi sul capo le mani inerti dell'uomo che l'aveva generata. Che idea hai avuto di morire? Gli disse. Non te lo perdonerò mai. ed effettivamente non glielo perdonò mai. Ancora dopo 20 anni, quando vedeva un vecchio, pensava che suo padre avrebbe potuto essere vivo come lui e sentiva la necessità di averlo vicino con la stessa urgenza del giorno dopo il funerale. A volte, a metà di un pomeriggio qualsiasi, perché a suo marito non era piaciuto il pollo al pomodoro, perché i suoi 3 figli avevano tutti l'influenza, oppure senza un perché, la zia Isabel si sentiva trafitta in tutto il corpo e cominciava a maledire il tradimento di suo padre. Allora si metteva a strillare, come faceva da piccola, quando lui le diceva: "Conserva le lacrime per quando morirò, che adesso ci sono io a pensare tutto." Non andava in chiesa, si sposò con uno di quegli uomini che all'epoca venivano chiamati i liberi pensatori e crebbe i suoi figli nella confusione teologica derivante dall'avere un padre che non nominava mai il nome di Dio neppure per negarlo. Una nonna e dei parenti che non facevano che pregare per la salvezza dell'anima di tale padre, e una madre che invece di pregare i santi, come facevano tutti i suoi concittadini, intratteneva lunghe conversazioni con la foto del nonnino e la domenica comprava un mazzo di garofani e andava alla tomba di famiglia. Per propria consolazione, la nonna li fece battezzare, insegnò loro il segno della croce e il catechismo del padre Ripalda. Grazie a lei fecero la prima comunione ed evitarono il problema di essere visti come atei. I bambini impararono tutto nello stesso modo in cui impararono dalla madre a giocare a dama cinese e a leggere e a inveire. Erano adolescenti quando la zia Isabel cade da un cavallo sul quale nessuno vuole sapere né perché né dove né con chi fosse salita. La trovarono lunga distesa sul campo militare mentre ripeteva un mucchio di sciocchezze che suo marito decise di non ascoltare. Si mise a baciarla come fosse una medaglia e rimase accanto a lei tutto il tempo in cui di solito era tanto occupato. La nonna chiamò un sacerdote e il figlio maggiore, pazzo di dolore, passò un giorno intero prendendo a calci il mobilio di casa. Il minore andò a rifugiarsi nella chiesa di Santa Clara e la figlia di mezzo prese i suoi 17 anni, accese un cero al nonnino e se ne andò alla tomba di famiglia con una carriola di garofani. Quando tornò a casa, il medico aveva detto che era tutto nelle mani di Dio e la famiglia intera piangeva in anticipo Isabel. "Non le succederà nulla", disse la secondogenita tornando dal cimitero con il sorriso di chi nel bel mezzo di un temporale ha trovato rifugio in un portone. "Me l'ha appena assicurato il nonnino", aggiunse rispondendo alla domanda che vedeva negli occhi di tutti. Poco dopo, Isabel riprese conoscenza e si beve d'un fiato la tazza di latte che la figlia le porgeva. "Hai ragione, mamma", disse la ragazza. "Il nonnino è santo." "Vero", rispose sua madre. "Vero", affermò la figlia, pensando all'unica domenica in cui aveva accompagnato sua madre al cimitero. Aveva 6 anni e sapeva per metà l'inno nazionale. Voleva cantarlo al nonno. "Gli farai piacere, figlia", le aveva detto Isabel. E mentre la bambina cantava, lei aveva affondato il viso nei garofani e aveva mormorato segreti e segreti, preghiere e preghiere. "Che cosa gli stai chiedendo, mamma?" aveva domandato la bambina. "Deliri, figlia mia", aveva risposto Isabel Covian. "Deliri."